vittoria strepitosa. L'esperienza delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grande... Non sarò in alcun momento il presidente solo della maggioranza che mi... Se mi sbaglio mi corrigerete. La storia e la memoria, in collaborazione con History Channel. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. In occasione della messa in scena dell'opera Ultimo Volo, orazione civile per Ustica, composta dal cantautore palermitano Pippo Pollina, Dino Pesole dedica il suo approfondimento alla strage di Ustica del 27 giugno 1980. Ospite ai nostri microfoni Daria Bonfietti, presidente storico dell'Associazione dei Parenti, già senatrice di esse. Grazie a lei l'aereo è stato ricostruito e ha preso vita l'associazione che ha voluto aprire il processo. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. La scorsa settimana abbiamo rievocato la strage aerea che costò la vita a 81 persone nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. Lo abbiamo fatto ripercorrendo le tappe principali che hanno contraddistinto la lunga vicenda dal punto di vista giudiziario, ma traendo spunto soprattutto dall'opera di musica e teatro Ultimo Volo, orazione civile per Ustica, composta dal cantautore palermitano Pippo Pollina per l'inaugurazione del Museo per la Memoria della Strage di Ustica e rappresentata in prima assoluta a Bologna il 27 giugno 2007. L'opera è stata riproposta sabato 19 dicembre a Firenze al Teatro Rifredi. A Bologna nel 2007 venne aperto al pubblico il museo che raccoglie i resti del DC-9 Itavia, raccolto anni dopo a 3.800 metri di profondità. Qualcuno mi ha portato qui. Se alzo lo sguardo vedo un rettangolo di cielo pieno di alluminio e di plastiche verdastre e attorno un involucro di metallo a sostenere ciò che ne è rimasto. Le mie ali, la mia prua come un becco di un rapace ormai demudé, il mio corpo bianco e rosso ricomposto con una pazienza certosina e ogni frammento sfigurato è stato catalogato, numerato, esaminato, analizzato e montato in un allucinante puzzle. Ogni tanto la gigantesca saracinesca di questo luogo polveroso si apre, si odono voci che parlano lingue diverse. Quella sera del 27 giugno del 1980, improvvisamente si persero le tracce del DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo. L'aereo si era disintegrato in volo, esploso, colpito da un missile, si disse, ma non si escluse nemmeno l'ipotesi del cedimento strutturale o dell'esplosione di una bomba a bordo. Poi nell'agosto del 1999 il giudice istruttore Rosario Priore concluse la sua istruttoria parlando espressamente di un'azione militare di intercettamento, di una sorta di operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui si ignoravano i mandanti e gli esecutori. Oggi è uno di quei giorni in cui ascolto le parole del cielo, come quegli animali fuori, infelici, aspettando le piogge, come gli indiani con le orecchie sulla terra e i cavalli al galoppo, come i torrenti in odore delle rapide sfiorando le sabbie. Abbiamo in linea Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, che è stata senatrice dei Democratici di Sinistra all'Ulivo dal 1994 al 2006. Grazie, prima di tutto, per aver accettato il nostro invito, senatrice. Grazie a voi, grazie a voi. Ecco, allora ci parli del suo impegno come presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime. Il prossimo anno saranno 30 anni dalla strage. Certo, sì. Si può fare un bilancio anche dal punto di vista non solo giudiziario, ma anche, come dire, della possibilità che questa strage ha di non essere dimenticata? Certo, io credo di sì. Sono stati 30 anni fra un po' molto duri, molto faticosi, e però con dei risultati importantissimi. Voi dovete sempre tenere conto che nell'85, quando io sono riuscita a tornare a pensare a questa tragica vicenda e nessuno purtroppo degli altri familiari era riuscito a farlo, non vi era nulla, nessuno stava lavorando per cercare di capire cosa successe quella notte nei nostri cieli a un aereo civile. Cercherò di essere velocissima, ma lei capisce che riassumere 30 anni di questa vicenda è davvero molto difficoltoso. In ogni caso, le dicevo, da quando ci siamo attivati abbiamo capito che il nostro ruolo di cittadini più che di parenti era di pretendere dalle istituzioni che ci dessero la verità, che ci consegnassero i responsabili, che si facesse quindi giustizia. E allora abbiamo indotto dei comportamenti, noi crediamo molto, molto diversi da quello che stava succedendo in quei primi anni, e della magistratura e del governo e del Parlamento, affinché si tornasse a parlare di questa vicenda, si tornasse a capire che si poteva indagare, che si potevano fare indagini per cercare di scoprire la verità. Detto questo, è stata durissima, faticosissima, ma nel 99, certo, ben dopo 19 anni, un giudice della Repubblica, il dottor Priore, ha concluso la fase giudiziaria più lunga, io credo di poter dire, della storia repubblicana come fase istruttoria, e ha concluso però con la verità, con la verità sulle cause della strage, che, insisto, fino all'85 e fino poi al 99 nessuno ci aveva dato. E la verità è appunto che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, aggiunge il giudice Priore. Sì. Quella notte qualcuno in quel cielo ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace. Questa è la tragica verità, ma è una verità molto importante che dà oggi a noi, lei diceva, come fare memoria, come continuare. Certo, noi continuiamo alla nostra battaglia perché vogliamo ben sapere chi ha potuto impunemente in una notte di giugno abbattere un aereo civile e non pagarne le conseguenze, non raccontare al nostro paese, a noi parenti delle vittime, quello che era potuto succedere. Certo. E allora la battaglia sta andando avanti, nel senso che i giudici PM di Roma, dottor Ameglio e la dottoressa Monteleone, hanno riaperto le indagini, perché per strage, essendo il reato, come tutti sappiamo, imprescrittibile, si può ancora e sempre indagare. Essendoci dei nuovi elementi, i giudici hanno riaperto le indagini. Non so come dirle, io spero proprio che il 30° anniversario porti alla verità, possa consegnarci anche quest'altro pezzo ben importante di verità. Sappiamo cosa è successo, non sappiamo gli autori, vogliamo davvero conoscerli. E in che modo il teatro, quindi la musica, l'arte, possono, a suo avviso, con questa bella rappresentazione di Pippo Polline, contribuire appunto a far sì che nel nostro paese non venga meno la memoria su un fatto così drammatico e inquietante? Sì, io credo che sia sempre stato un rapporto privilegiato che abbiamo voluto avere con l'arte, con lo spettacolo, con le espressioni della cultura e degli artisti in questi anni, e le abbiamo voluti legare alla nostra vicenda. Ha iniziato noi inconsapevoli o noi non consapevoli di quello che stava succedendo Marco Risi con il film Il Muro di Gomma, e ci disse, quando l'aveva già fatto, insomma, che stava lavorando intorno a questa nostra vicenda, e questo erano gli anni 90. Ecco, da lì in poi abbiamo capito che era sicuramente un modo per legare a questa vicenda, quindi alla possibilità di fare memoria intorno a questa tragica vicenda, l'arte contemporanea, e quindi il teatro. Abbiamo indetto un premio Ustica per il teatro, che si svolge ogni con cadenza biennale a Bologna, e poi abbiamo legato la nostra vicenda alla capacità espressiva, come voi tutti conoscete, di Marco Paolini, che ha fatto per noi quella bellissima opera Canto i Tigi per Ustica. E poi anche Pippo Pollina, che ha voluto incontrarci, ha voluto conoscerci, ha voluto esprimere con la sua arte e con la sua musica, con la sua voce meravigliosa, questa realtà, questa vicenda che lo ha toccato davvero, forse anche come siciliano, certo, d'origine, in maniera profonda, e abbiamo trovato, che mi creda, un nuovo amico che si è aggiunto ai tantissimi che in questi anni ci hanno aiutato con la loro arte, insisto, con la loro capacità di esprimere anche altro rispetto appunto alle parole, no? Ma anche con altri mezzi, con il loro linguaggio hanno saputo esserci vicino. Non ultimo, e vorrei davvero ricordarlo a tutti, voi sapete che abbiamo fatto nascere questo museo per la memoria, sì, di Ustica a Bologna, che vede il ritorno del 19, sul quale i nostri cari sono stati quella notte, ripescato, come sapete, in fondo al mare a 3500 metri di profondità, e ritornato a essere il simbolo, e per questo l'abbiamo fortemente voluto a Bologna, della nostra battaglia, è stato il simbolo della nostra lotta dura per la verità, e non potevamo pensare che andasse disperso, rottamato in qualsiasi, certo, luogo del nostro paese una volta finito l'utilizzo della magistratura, e quindi l'abbiamo voluto a Bologna, oggi è là, memore, e per sempre, io credo, farà memoria di questa vicenda. Dico per sempre perché abbiamo avuto la capacità di pensare a un altro intervento davvero eccezionale intorno appunto al sudario e a questo simulacro del 19, ed è la rappresentazione artistica di un grande artista contemporaneo, che è Christian Boltanski, francese, ebreo francese, che sa raccontare come uno dei più grandi artisti italiani internazionali, sì, della nostra storia contemporanea, sa parlare di memoria, sa raccontare le tragedie del nostro secolo, e allora lui è riuscito, dopo che gliel'abbiamo chiesto, e ha voluto essere con noi per dialogare con la sua arte con il 19 dell'Italia. È un'opera, sì, di grande spessore culturale e artistico, che davvero, dato che me ne date la possibilità, chiedo ai cittadini tutti, agli italiani che passassero mai da Bologna, di venire, certo, a visitarlo e a vederlo. È un luogo davvero molto frequentato, noi siamo contentissimi di questa realizzazione. Il museo è aperto ben 3 giorni alla settimana e vede la presenza sempre di tante persone, cittadini italiani, stranieri, studenti, professionisti, che comunque ci danno il senso che abbiamo fatto la cosa giusta, abbiamo fatto una cosa importante, e questo è uno dei modi migliori, io credo, affinché questa vicenda non venga mai più dimenticata. Grazie tante, senatrice. Grazie a voi per l'attenzione. La storia e la memoria torna tra poco. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. Continuiamo con la serie di radiodocumentari realizzati da Radio 24 in collaborazione con History Channel, dedicati alle battaglie e alle storie delle più famose navi da guerra di tutti i tempi. Questa sera ascolteremo le vicende dell'imbarcazione da guerra USS Texas. Questa nave, progettata per la Grande Guerra, è stata determinante nella risoluzione anche del secondo conflitto mondiale. Alle 5:30 del mattino, la corazzata USS Texas si trova a 11 km dalla costa della Normandia. I suoi cannoni da 360 mm fermano l'artiglieria tedesca che minaccia lo sbarco alleato. Mentre la USS Texas spara proiettili antibunker di circa 580 kg, centinaia di navi da sbarco fanno rotta verso la costa. Molte affondano prima di arrivare, provocando migliaia di vittime e rovesciando nel canale della Manica artiglieria e carri armati. La Texas e le altre imbarcazioni alleate sono sempre più vicine a terra. Aumentano gli obiettivi e con essi la potenza di fuoco. Ondate di soldati conquistano la spiaggia di Omaha e lentamente avanzano sotto il fuoco protettivo della Texas. La moderna marina militare nasce nei primi anni del XX secolo. Il presidente Roosevelt crede che una grande nazione debba avere una marina potente e un'ampia flotta. Roosevelt autorizza i fondi per 16 nuove corazzate, tutte dipinte di bianco con volute dorate sulla prua. Così nasce la cosiddetta Grande Flotta Bianca. Nel 1910 vengono approvati i fondi per costruire la New York e la Texas, progettate per essere le navi da guerra più potenti del mondo. La costruzione della Texas comincia nel 1911 a Newport, ad opera della News Shipbuilding and Dry Dock Company. 3 anni più tardi è pronta. A mezzanotte e mezza del 12 marzo 1914, la Marina degli Stati Uniti accoglie finalmente nella flotta la sua nuova nave da guerra. La Texas è l'apice della progettazione. Oltre 170 metri di lunghezza e quasi 30 metri di larghezza. Il primo ufficiale in comando è il capitano Albert W. Grant. Il suo equipaggio consiste di 950 uomini tra ufficiali, reclute e marines. Ma il compito più importante dell'equipaggio, la ragione ultima per cui esiste la corazzata, è la gestione delle sue armi più formidabili. Le batterie gemelle di cannoni da 360 mm, cannoni così potenti da sparare proiettili da 580 kg a una distanza di 20 km. Una seria minaccia per qualunque cosa si trovi lungo le coste dell'oceano. John Ferguson, autore di Texas, una corazzata storica. Quando la Texas fu commissionata nel 1914, i suoi cannoni da 360 mm erano i più grandi del mondo e l'arma più pericolosa sulla faccia della Terra. Ma il suo status di arma più potente al mondo sarebbe durato poco. L'anno successivo, la Marina Britannica costruisce una corazzata più grande, più veloce e con armi da 380 mm. La Texas perde il primato di più grande corazzata da guerra, ma è ancora un'arma formidabile e per la prima volta sta per essere testata. Il 21 aprile del 1914 scoppia la battaglia di Veracruz, nella quale muoiono 22 marinai americani. Il presidente ordina alla Texas di mettere un blocco al porto di Veracruz come protesta per le azioni subite e per proteggere gli interessi americani. La Texas rimane ormeggiata a Veracruz poco più di 2 mesi. Non ha mai sparato un colpo. Agosto 1914. In Europa scoppia la Prima Guerra Mondiale. Nel Mare del Nord la grande flotta britannica impone il blocco navale alla Germania. Questa maestosa flotta è un efficace deterrente fino al 31 maggio 1916, quando la marina tedesca attacca. Durante la battaglia nello Jutland, le navi tedesche infliggono più danni di quelle britanniche. Ma il rischio è maggiore della ricompensa. I tedeschi si ritirano e si concentrano sul rafforzamento dei sommergibili nella flotta. Attraversando l'Atlantico, l'equipaggio della Texas si chiede che cosa lo aspetta in quella che sarà una delle più grandi battaglie navali della storia. Gennaio 1917. Gli agenti britannici intercettano e decodificano un telegramma diretto dalla Germania al Messico. In esso si propone un'alleanza contro gli Stati Uniti. Questo, oltre alle continue aggressioni della Germania alle navi mercantili civili e all'affondamento della britannica Laconia, mette Washington in azione. Il presidente Woodrow Wilson ordina che una divisione americana vada ad unirsi alla flotta britannica. La Texas comandata dal capitano Victor Blue, ha finalmente l'opportunità di dimostrare tutta la sua potenza sul campo di battaglia. L'11 novembre 1918 la Germania firma l'armistizio che mette fine alla Prima Guerra Mondiale. Il 20 novembre inglesi e americani navigano verso il Mare del Nord. Alle 8:25 del mattino, la flotta tedesca naviga tra le navi alleate per dichiarare formalmente la propria resa e il successivo internamento. Alla fine della guerra in Europa, la Texas torna al porto di New York, accolta dalla celebrazione più grande che New York abbia mai visto. Ma appena oltre l'orizzonte si profila una nuova guerra che la metterà in una posizione ancora più insidiosa. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la Marina degli Stati Uniti sceglie la Texas per un esperimento rivoluzionario. Durante la sua permanenza nella baia di Guantanamo a Cuba, viene montata una grande piattaforma sulla torretta numero 2. Poi viene portato a bordo un aereo inglese, lo Sopwith Camel. Poi, il 9 marzo 1919, il comandante Edward McDonnell si lancia fuori dalla piattaforma con l'aereo e vola. L'esperimento è un successo. La Texas diventa la prima corazzata statunitense che lancia un aereo. Dopo la Prima Guerra Mondiale, in un clima tesissimo, si scatena la corsa agli armamenti. Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone sviluppano a ritmi allarmanti massicce flotte navali pronte per la battaglia. Ancora John Ferguson. Le corazzate sono costose. Molti pensavano che i soldi andassero usati meglio, in modo più costruttivo. Quindi il presidente Harding convocò la conferenza militare di Washington. Erano presenti i vertici militari dei principali paesi e venne firmato un trattato per bloccare la proliferazione di navi da guerra per 10 anni. Barry Ward, direttore esecutivo Corazzata Texas. Così la Texas e molte delle sue sorelle, invece di essere demolite e ricostruite, vengono modernizzate. La politica era questa. La Texas subisce diversi interventi, tra cui la sostituzione delle caldaie a carbone con quelle a olio combustibile, aumentando autonomia ed efficienza. Viene scelta come fiore all'occhiello della flotta americana dal comandante in capo, l'ammiraglio Henry A. Wiley. La USS Texas viene ufficialmente assegnata all'ammiraglio Wiley a San Pedro, in California, l'8 novembre 1927. Nel corso del tempo, i comandanti militari iniziano a considerarla un vecchio battello. Al termine del Trattato Navale di Washington, nel 1932, gli Stati Uniti costruiscono corazzate portaerei nuove e più veloci. Le navi da guerra diventano superiori. Nel 1937, la Texas viene assegnata alla flotta per la formazione della Marina. Ancora John Ferguson. In un'epoca in cui tutto si rinnova, lei è vecchia. Ad esempio, non riesce a tenere il passo con le portaerei o non può salpare velocemente come le nuove corazzate. La Texas è considerata troppo vecchia e troppo lenta per la guerra. E con la continua depressione economica, diventa anche troppo costosa. I suoi giorni sono contati. È destinata alla rottamazione, quando nel 1939 l'avvento della guerra cambia la sua sorte. Tra il 1939 e il 1941, l'America assiste alla lenta disgregazione dei paesi alleati. Gran Bretagna e Francia. Comincia a scortare i convogli di rifornimenti mercantili dal Nord America, Stati Uniti e Canada, verso le coste dell'Inghilterra. Il 20 giugno 1941, 6 mesi prima di Pearl Harbor e dell'entrata in guerra dell'America, un sommergibile tedesco dà la caccia alla USS Texas. Per diverse ore guarda silenzioso gli americani inconsapevoli del pericolo sotto di loro. I tedeschi mandano un messaggio radio in Germania. hanno la USS Texas a tiro e chiedono il permesso di aprire il fuoco. La storia e la memoria torna dopo la pausa con la seconda parte del radiodocumentario. Restate con noi. La storia e la memoria. Dopo la Prima Guerra Mondiale, i numerosi cannoni della USS Texas, ormai entrati nella leggenda, sono temuti dai nemici degli Stati Uniti. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la USS Texas, insieme ad altre navi da guerra, si trovava di scorta ai convogli che attraversavano l'Atlantico. John Ferguson, autore di Texas, una corazzata storica. Nel giugno del 1941, un sommergibile tedesco stava pedinando la Texas. Il comandante era pronto a sparare per affondarla, ma il comando in Germania negò l'autorizzazione a fare fuoco sulla Texas, perché non voleva che gli Stati Uniti entrassero in guerra prima di quanto non fosse necessario. Se la USS Texas, con la sua corazza d'acciaio, sarebbe sopravvissuta a un attacco da parte del sommergibile tedesco, non lo sapremo mai. Ma la fortuna continua a tenerla in vita. La Texas è ancorata a Portland, nel Maine, quando l'attacco a Pearl Harbor porta ufficialmente gli Stati Uniti in guerra. Il suo equipaggio trascorre i mesi successivi in stato di allerta. La sua missione è scortare i convogli. Nel novembre del 1942, sotto il comando del capitano Roy Pfaff, la Texas cambia rotta e si unisce alla flotta d'invasione diretta in Nord Africa. Si tratta della sua prima vera battaglia. Le prime truppe americane sbarcano alle 5:30 di mattina. Ancora non è pomeriggio che arriva il primo ordine da un ufficiale: distruggere un deposito di munizioni nemiche. I cannoni della Texas respingono i contrattacchi alle truppe americane. Barry Ward, direttore esecutivo Corazzata Texas. L'operazione nel Nord Africa fu molto interessante. In quel momento, infatti, gli Stati Uniti venivano visti più come un deposito di approvvigionamento che come forza da combattimento. Ancora John Ferguson. La Texas e il suo equipaggio dimostrano la loro forza. Il risultato di anni di formazione e le innovazioni tecnologiche saranno un fattore determinante nell'invasione del 1942. La Texas e il suo equipaggio dimostrano così di non essere vecchi né superati. Tuttavia, per i 16 mesi successivi, trascorrono la maggior parte del tempo a scortare navi mercantili e convogli nell'Atlantico. Quello di scortare un convoglio non dovrebbe essere considerato come un ruolo ingrato. Le più recenti e veloci corazzate di classe Iowa, con cannoni da 406 mm, andavano verso il Pacifico. Scortavano portaerei perché potevano tenere il loro passo. Quindi si è trattato di un caso se questa nave, considerata da molti vecchia e datata, è stata quella che ha fornito la copertura per l'assalto anfibio più grande che la storia ricordi. Il 31 maggio, alle 8 del mattino, a 6 giorni dal D-Day, il capitano Baker ordina di interrompere i contatti a terra. La nave è pronta alla battaglia. È giunto il momento di lucidare le armi. Il capitano Baker avverte i suoi uomini. Anche il nemico è sempre pronto. La Texas offre supporto nell'operazione Neptune, la fase navale dell'operazione Overlord. L'invasione alleata in Francia. 6 cannoni da 155 mm appostati sulle rocce sovrastanti le spiagge di Omaha e Utah. Perché l'assalto alleato abbia successo, è necessario neutralizzarli. D-Day. La Texas si trova a circa 11 km dalla costa francese. Nei cieli Centinaia di coraggiosi aerei alleati trasportano bombe e paracadutisti verso la Francia. Alle ore 6:24 precise, il capitano Baker ordina il cessate il fuoco. L'equipaggio guarda e attende il muoversi delle prime truppe verso la costa. Ancora Barry Ward. All'epoca queste navi erano importanti anche perché rappresentavano i ricoveri chirurgici più vicini al campo di battaglia. Gli ospedali da campo non erano ancora montati, né c'erano elicotteri. I mezzi da sbarco scaricavano uomini e caricavano feriti che venivano portati sulle corazzate come la Texas. Nei giorni successivi, l'unità di controllo a terra riferisce continuamente sulle posizioni nemiche. Poi guarda i cannoni della Texas metterle fuori uso. Ancora John Ferguson. A un certo punto, il 9 giugno 1944, i tedeschi ammassarono un alto numero di carri armati per prepararsi ad un attacco. Avevano capito abbastanza presto che i cannoni della Texas avevano una portata di 18 chilometri. A quel punto, Baker, il capitano, ordinò agli ingegneri di modificare l'assetto della nave. La Texas riceve l'ordine di dirigersi a ovest verso la città di Cherbourg. Cherbourg era presidiata dall'esercito tedesco, che riceveva ordini direttamente da Erwin Rommel, comandante delle difese del muro atlantico. L'esercito americano sapeva che Cherbourg era difesa dall'artiglieria pesante tedesca. Così il comando di terra chiese alla marina di andare a sostenere l'assalto alla città che stava per iniziare. Il 25 giugno 1944 i cannoni da 360 mm della Texas spararono proiettili alle postazioni tedesche, le quali risposero con proiettili da 230 a 240 mm. John Edelman, primo trombettiere. Il capitano mi guardò e mi disse: il prossimo colpo è per noi. Poi non disse più nulla. Eravamo stati colpiti. Quando il timoniere Chris Christensen viene trasferito in infermeria, il capitano Baker improvvisa su due piedi una postazione di guida sulla torre di comando. Ancora Barry Ward. Si trovava in mezzo al fuoco dei proiettili di grosso calibro. Strano che non fosse stata colpita prima. La Texas era davvero fortunata. Il danno avrebbe potuto essere molto, molto peggiore. Un cacciatorpediniere colpito dalla stessa batteria perse più di 20 uomini con un'unica bomba. Il giorno successivo ai bombardamenti, la Texas torna in Inghilterra, dopo aver sostenuto la sua prima vera battaglia e aver perso per la prima volta un membro dell'equipaggio. Viene riparata e attrezzata per la missione successiva, destinazione Pacifico. I suoi anni d'oro continuano nei combattimenti più feroci del conflitto. Dopo essere stata riverniciata di blu scuro, la USS Texas parte per il Pacifico. Insieme a una flotta di navi alleate naviga al largo della costa di Iwo Jima, all'ombra del monte Suribachi. Per gli strateghi statunitensi, la desolata isola vulcanica contiene aeroporti di importanza fondamentale. Ma per i 70.000 Marines che si preparano al suo assalto, l'isola incute solo terrore. Al sorgere del sole, i cannoni della Texas rompono la quiete. Nel corso dei giorni successivi, la Texas continua a sparare sui cannoni giapponesi. Il capitano Baker sposta la nave a quasi 2 chilometri dalla costa, nel tentativo di colpire il bunker più vulnerabile del nemico e le sue armi antiaeree. Il D-Day per Iwo Jima comincia il 19 febbraio. La Texas spara quasi fino alle 9 del mattino, quando le prime ondate di Marines sbarcano sulla spiaggia. L'attacco diventa sanguinoso. Poco prima dell'assalto delle truppe, la Texas apre il fuoco di copertura. Gli armieri lavorano velocemente, distruggono ogni postazione o nido di mitragliatrici giapponesi visibili. I Marines lottano strenuamente per guadagnare ogni centimetro. I combattimenti a Iwo Jima continuano per settimane. La Texas non partecipa. Il 7 marzo va alle isole Caroline per il riposo, le riparazioni e il rifornimento. il 25 marzo, si ritrova a fronteggiare le posizioni nemiche in un'altra isola fortificata, Okinawa. Il 1 di aprile, alla Texas, posizionata a sud-est dell'isola, viene ordinato di aprire il fuoco. Dalla costa i giapponesi focalizzano lì la loro attenzione per impedire lo sbarco dei Marines. Ma è un trucco. E gli americani assalgono la spiaggia altrove, approfittando della distrazione del nemico. La Texas, un tempo destinata alla rotamazione, prende parte a tre dei più importanti assalti anfibi della storia americana. Ancora Barry Ward. È difficile calcolare quante vittime americane in più avremmo avuto se non ci fossero state navi come la Texas a dare un sostegno di fuoco durante la battaglia. Quei grossi cannoni costruiti nel 1914 stavano salvando la vita degli americani nel 1945. I cannoni da 360 mm della Texas hanno una gittata di circa 20 km. Potendo sparare da un punto così lontano dalla costa, la nave può scampare a qualsiasi arma di terra. A Okinawa, tuttavia, i kamikaze giapponesi portano il pericolo direttamente sulla Texas. Questi attacchi stavano devastando la flotta americana, ma nessun kamikaze ha mai colpito la Texas. Un paio riuscirono ad avvicinarsi molto. Uno arrivò talmente vicino che quando fu colpito i pezzi caddero sul ponte della nave. Agosto 1945. La Texas fa rotta verso il Golfo di Leyte, nelle Filippine, per preparare l'invasione del Giappone. La sera del 10 agosto, mentre gli uomini guardano un film, il capitano Baker li interrompe. Harold Long, marinaio. Si sono accese le luci e il capitano ha detto: è il vostro capitano, la guerra è finita. Il film era finito in quel momento. Abbiamo esultato tutti e acceso i riflettori. Si poteva andare in cambusa e avere tutto il caffè, il pane, i dolci e le torte che volevamo. Ci davano tutto. La USS Texas, 31 anni di servizio, veterana della Prima Guerra Mondiale, destinata due volte alla rotamazione, sopravvive anche alla Seconda Guerra Mondiale. Ancora Barry Ward. Abbiamo un pezzo di tecnologia la cui storia inizia con il decollo dei primi aerei e arriva fino all'era nucleare, con tutto ciò che comporta politicamente, economicamente e geograficamente. Una carriera fenomenale per una nave fenomenale ed eroica. Il 21 aprile 1948, la USS Texas apre come museo alla memoria. Oltre 40 anni dopo, nel 1988, a 76 anni, la Texas necessita di restauro e torna al bacino di carenaggio. Nell'estate 1990 riapre come museo galleggiante. Oggi è rimasta l'unica nave degli Stati Uniti che prestò servizio nelle due guerre mondiali. Il radiodocumentario che avete appena ascoltato è in programmazione martedì 29 dicembre alle 8.45 su History Channel ed è prodotto da AETN. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Manuela Sicuro. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.